Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi inizia concludendo. In realtà la chiacchierata è iniziata la volta scorsa con Luca Boschi, un grande veterano del nostro mondo delle strips. L'occasione è ovviamente importante, è l'edizione di questo volume Italia Ride, che ha anche un sottotitolo abbastanza indicativo, l'avventurosa epopea del fumetto comico italiano del dopoguerra, che in qualche modo è anche per noi quasi un pretesto, tramite prendere alcuni passaggi di questo libro, per a nostra volta ritrovare diversi momenti significativi anche del dopoguerra italiano tra monarchici e repubblicani. Ascoltiamo. Boschi, molti autori forse che sono dimenticati oggi. Assolutamente, alcuni non sono praticamente mai stati conosciuti. Io mi sono servito di fonti dirette in gran parte, per quanto fosse possibile. Ho sempre conservato negli anni le cose che trovavo, trasportandole anche da una casa all'altra, da una città all'altra. Anche le parti redazionali degli albi a fumetti sono determinanti. Per il Pioniere lo sapete benissimo quanta importanza hanno, però anche per gli altri, cioè, hanno una funzione più insidiosa, no? Perché passano in seconda battuta, chiaramente non sono la ragione dell'acquisto dei cosiddetti albi a fumetti, che sono acquistati proprio perché c'è fumetto da copertina a copertina, salvo qualcosa che serve per allungare il brodo, ma non perché è uno scopo preciso didattico o informativo che si vuole perseguire. Molti autori sono sconosciuti, alcuni li cito per la prima volta, alcuni sono grandi pubblicitari che poi hanno lavorato in settori diversi e sono anche morti un po' di anni fa, quindi era anche difficile ritrovarne le tracce. Altri, e questo magari è un altro fatto abbastanza interessante, hanno dei punti di contatto con il cinema, la sceneggiatura, quindi altre forme di intrattenimento, la canzone. Per esempio si parla di Franco Migliacci, che tutti conoscono come paroliere di grandi successi del Festival di Sanremo, nel Blu dipinto di blu, faccio per dire quello che è assolutamente indimenticabile. Ha lavorato per un giornalino che si chiamava Bambola, destinato alle ragazzine, per più di un editore. Il primo editore si chiamava Ugo Del Buono, un altro si chiamava Gabriele Gioggi, eccetera. Per questo giornalino faceva delle storielline abbastanza bruttarelle, detto tra noi, firmandosi Miglia. Migliacci, Miglia, beh, è quello di che ha scritto le prime canzoni Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, faccio per dire, andavo a 100 all'ora, questo tipo di cose qua. È un'ora che aspetto davanti al portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo ti spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai scendi, vieni giù. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo mi spaccherò il muso. fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Per quanto riguarda il cinema c'erano anche degli altri collegamenti, per esempio a un certo punto parlo di Lorenzo Castellari che ha disegnato su testi di Nino Capriati, ex anche lui personaggio attivo durante il periodo fascista, fondatore del premio Maschera d'Argento per lo spettacolo, per il teatro e le altre arti a Roma, un signore di una certa importanza, scriveva delle storie a fumetti con Totò a fumetti, Totò altro monarchico ovviamente, in base a questo tipo di conoscenza aveva avuto una specie di viatico per un giornalino a fumetti su di lui, per un albo a fumetti, se non che quando poi il principe Antonio De Curtis vede qual è il risultato, gli scrive addirittura una diffida, basta, stop, non andare avanti, non c'era niente dello spirito dei film di Totò, del suo umore all'interno di queste storie a fumetti. Sono albi tra l'altro abbastanza rari e pregiati, pubblicati dall'editore Diana, editore stampatore. Un'altra cosa che vale non soltanto per questo tipo di ricerca, ma un po' in generale per l'editoria, è che alcuni tipografi, non editori, diventano editori e si gettano sul fumetto perché è molto più facile e economico e anche sicuro dal punto di vista dei cavi che si prospettano, che si possono prospettare, pubblicare degli albi a fumetti anziché dei giornali di altro tipo. Servono i redattori, i correttori di bozze, tutto staff di persone che per gli albi a fumetti non è indispensabile, basta avere le tavole, stamparle. In pratica i tipografi hanno bisogno di carta da, virgolette, imbrattare. Ecco, le tavole a fumetti fanno abbastanza presto, le mandano in edicola, in gran parte anche in modo garibaldino, bisogna dire, che con refusi all'interno dei dialoghi, cioè una cura redazionale a volte abbastanza scadente, onestamente, specialmente per i piccoli editori, e in qualche modo dei ricavi li hanno. Fiorisce anche una produzione artigianale fatta di forse disegnatori e autori anche locali. Assolutamente. Alcuni hanno un ambito d'azione soltanto territoriale. Una cosa che è molto difficile da capire, e io non sono riuscito a sviscerare questo fatto del tutto perché mancano gli strumenti, è se alcune di queste pubblicazioni, per esempio, circolano soltanto in ambito romano e in qualche caso arrivano nel nord. Di solito le pubblicazioni del nord, Torino, Milano prevalentemente, hanno una distribuzione per tutta Italia, però quelle romane non necessariamente, perché ci sono dei distributori locali, per esempio prendono il Lazio e una buona parte del sud Italia, arrivano sicuramente in Sicilia, arrivano in Campania tramite la AG Napoli, agenzia del giornale per un certo periodo, che tra l'altro porta in Italia anche i comic book americani con un timbro che li imbruttisce parecchio sulla copertina, e circola anche quindi in Italia questo materiale in inglese, per lo più durante il periodo estivo, viene comprato dai turisti, però influenza anche moltissimo gli autori di fumetti, perché alcuni si ispirano, alcuni nostrani, si ispirano profondamente a questi albi che altrimenti non avrebbero mai conosciuto, perché non hanno una traduzione in italiano. È un lungo percorso, ci sono dei punti di contatto con il fotoromanzo, alcuni editori stampano contemporaneamente fotoromanzo, appunto Gabriele Giorgi per esempio, prendendo i fotogrammi dei film, e nel libro c'è tutta la descrizione particolarmente funambolica di come si faceva stampare all'epoca dei fotoromanzi, quanto costava, era molto. E poi c'è per esempio la casa editrice Universo, di cui parlerò ampiamente nella seconda parte, nel secondo volume che uscirà nel 2022 si suppone, che è appunto la casa editrice di Grand Hotel, ancora esiste e noi lo consideriamo normalmente un fotoromanzo, ma all'epoca quando nasce non lo è, perché le immagini sono disegnate a mezza tinta da grandi disegnatori o preferibilmente pittori, come venivano chiamati, ritraendo dei vivi di Hollywood oppure delle star del cinema italiano. Non è impossibile vedere per esempio Clark Gable che in una vignetta recita accanto a Gina Lollobrigida, faccio per dire, magari non mantengono quei nomi ma l'allusione ai nomi dei personaggi che interpretano nella trama.